Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È una cosa bella, io lo credo. Lo credo perché penso che fare politica non sia quella schifezza che ci è stata raccontata. Che fare politica sia innanzitutto servire le persone che hanno più bisogno di essere aiutate. Che fare politica sia un impegno che anima il cuore e la mente di ciascuno di noi, che fa allargare il cuore delle persone. Insomma, avete capito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Renzi che cosa dice della politica, che non è quella schifezza che tanti raccontano, ma è qualcosa che addirittura allarga il cuore. Possiamo magari soffermarci su questa frase, su questa considerazione della politica, se volete, per alleggerire oggi con i vostri messaggi, perché in realtà i messaggi naturalmente attraverso i due canali, la pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms al 349-238-6666, se siete d'accordo con questa concezione della politica che Renzi si ha descritto in questo passaggio. Perché per il resto vi devo dire ci sono un sacco di cattive notizie di cronaca oggi, una in particolare, ma insomma fra tutte, e poi faremo anche naturalmente il punto della politica della settimana, perché abbiamo fatto indigestione di fatti, davvero una settimana ricchissima di fatti politici, dall'Italicum che è stato approvato alla scuola, lo sciopero, i vitalizi, fino a questo caos pensioni. Poi naturalmente ci sarà il meteo e parleremo ovviamente tra poco anche di elezioni in Gran Bretagna. Allora 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure come sempre comodissima la pagina Facebook di Effetto Notte. Cominciamo allora con la giornata. Gran Bretagna, contro tutte le previsioni, Cameron stravince e nella telefonata ricevuta da Renzi dice: lavoriamo insieme su Europa e immigrati. Uno studente ucciso in Sardegna, aveva 19 anni, freddato mentre aspettava il bus per la scuola. Alcuni amici raccontano che difese la ragazza dai bulli. A Effetto Notte ci sarà la preside del suo istituto. Stati Uniti, economia americana fuori dalla crisi, disoccupazione al 5,4% ai minimi dal 2008. Scuola, braccio di ferro tra sindacati e governo, scrutini a rischio, pronto un pacchetto di emendamenti da parte del PD al disegno di legge della buona scuola. E per il calcio la notizia è che è stata sospesa la squalifica della curva della Juventus. Servono altre indagini. Partiamo quindi dalle elezioni in Gran Bretagna con la stravittoria, possiamo dire, dei conservatori, dei Tories e quindi del primo ministro David Cameron, contro sicuramente, dico ogni aspettativa, ma sicuramente i sondaggi che in questi giorni continuano a dire sono le elezioni più incerte di sempre in Gran Bretagna, perché c'è un testa a testa tra Tories e laburisti e quindi non si formerà una maggioranza, neanche probabilmente alleandosi ai liberali democratici, insomma tutto spazzato via, comprese alcune teste. Ma ne parliamo con Sergio Nava, che è lì a Londra per noi. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Quindi grande festa ovviamente per Cameron. A quanto pare i sondaggisti non fanno cilecca solo da noi, sulle previsioni. Sì, per loro è stata veramente una debacle pesante, forse la debacle peggiore, l'unica debacle peggiore rispetto alla loro l'hanno avuta i liberal democratici, che quasi sono scomparsi dal panorama politico. Però battute a parte, nessuno veramente ci ha preso, sono rimasti veramente tutti completamente spiazzati, qui tutti i media sono rimasti spiazzati, perché veramente si erano ormai abituati, rassegnati all'idea, e quindi anche noi, diciamo, inviati stranieri, che ci sarebbe stato un risultato molto incerto e che, diciamo, una soluzione per trovare un governo non sarebbe arrivata prima di qualche giorno, se non settimane. Invece si è risolto tutto in breve tempo. Senti Sergio, ma allora nella telefonata di complimenti, congratulazioni che gli ha fatto Renzi, lui ha detto lavoriamo insieme sull'Europa e sugli immigrati, però intanto mi pare che debba tener fede alla promessa che aveva fatto agli inglesi, ai britannici, di fare il referendum. La politica è fatta di parole che significano tutto il contrario di tutto. Quando Cameron dice lavoriamo insieme sull'Europa, dipende quale Europa intende Cameron, non necessariamente l'Europa che intendono gli altri paesi. L'Europa che vuole Cameron è un'Europa fondamentalmente con una forte connotazione economica, quindi area di libero scambio, mercato interno, però un mercato interno che non sia troppo regolato, perché poi questo dà fastidio. Diciamo un'Europa che punti molto sulla competitività della sua economia e molto meno sull'unione politica. Questa a Cameron non piace, non intende assolutamente approfondire ulteriormente. Diciamo che questa vittoria elettorale innescherà un referendum che poi a sua volta potrebbe innescare un'Europa veramente a due velocità, con un gruppo di paesi come l'Italia, la Germania, la Francia, sempre più integrati anche politicamente ed economicamente, un gruppo di paesi esterni nell'Eurozona che se non vanno via restano, ma cercano di trarre solo benefici prettamente economici. La Gran Bretagna ormai si è messa su questa strada. Allora, adesso mi pare stia già lavorando Cameron alla preparazione della squadra di governo. Ha confermato già il ministro dell'economia, se non sbaglio? Sì, qui è, tecnicamente viene chiamato cancelliere dello scacchiere, si chiama George Osborne. Di fatto ha confermato quattro pezzi grossi, anche il ministro degli esteri, Hammond, la ministra dell'interno May. Di fatto è ripartito dalle conferme, poi nei prossimi giorni dirà anche chi saranno i nomi nuovi, perché poi non dimentichiamolo, prima governava in coabitazione con i liberal democratici che sono quasi scomparsi e quindi ora avrà un governo monocolore. Ora, due cose però vorrei far notare importanti che sono un po' sfuggite secondo me. A parte le dimissioni dei leader degli altri partiti, dici? Sì, questo è molto normale nel sistema inglese, se si perde male si va a casa, insomma è un qualcosa che da cui dovremmo imparare sempre di più, soprattutto i nostri politici intendo. Due cose importanti: la prima è che Cameron ha fatto un'enorme festa, i media qui hanno battuto moltissimo il tasso su questo, ma la sua maggioranza alla fine è di 6 seggi solamente e ha un partito alla fine anche abbastanza diviso su temi, soprattutto sul tema europeo, c'è una vena, c'è una parte dei conservatori molto euroscettica, molto anti-europea, anzi eurofoba quasi, quindi 6 seggi di maggioranza in un governo monocolore sono pochi, soprattutto su questioni, su votazioni potrebbero essere delicate nei prossimi 5 anni, prima cosa. Seconda cosa, qui abbiamo una Scozia che praticamente ha voltato le spalle al resto del paese, perché quando i nazionalisti scozzesi che hanno sostenuto il referendum sull'indipendenza prendono 56 seggi su 59 e lasciano agli altri partiti solamente 3 seggi all'interno della Scozia, vuol dire che la Scozia sta mandando un chiarissimo messaggio a Londra, sta dicendo o ci date i poteri oppure veramente noi torniamo a fare un referendum sull'indipendenza. Ma tra l'altro nella campagna elettorale di Cameron c'era questa prospettiva di maggiore autonomia, no, per la Scozia. Beh, diciamo, Cameron ha fatto un po' il furbo giocando sul fatto che non avesse poi così tanto tempo, di fatto ha promesso una maggiore devoluzione di potere alla Scozia, così come previsto dal referendum sull'indipendenza, cioè gli ha detto se votate no all'indipendenza comunque vi diamo ancora più potere, diventate di fatto uno stato quasi indipendente, possiamo dire, perché diciamo vi garantiamo veramente una amplissima autonomia. Poi però nei mesi successivi non ha fatto granché, anche con la scusa tra virgolette di un'elezione imminente che gli legava un po' le mani. Diciamo che gli scozzesi insomma sono scozzesi, non dimentichiamolo, e quindi queste cose le notano. Grazie Sergio Nava da Londra. Ciao Sergio, salutaci Londra. Ciao. E poi da Londra invece dalla Gran Bretagna andiamo agli Stati Uniti, dove arriva la buona notizia di un'economia in netta ripresa e con la disoccupazione in calo. Obiettivo raggiunto per l'occupazione negli Stati Uniti, più 223.000 posti di lavoro ad aprile, con un tasso di disoccupazione che scende al 5,4%, ai minimi dal maggio 2008, prima della crisi finanziaria e dell'insediamento del presidente Obama. Un dato in linea con le attese degli analisti e che si avvicina al target considerato dalla Fed come condizione di piena occupazione. Le indicazioni sul mercato del lavoro sono un elemento chiave per le scelte di politica monetaria della Banca Centrale Americana, che a cavallo dell'estate deve decidere se dare il via al percorso di innalzamento dei tassi di interesse. Questi dati riflettono ampiamente la ripresa in corso, commenta la Casa Bianca, anche se i numeri sono stati probabilmente influenzati da un temporaneo rimbalzo. Resta cruciale rafforzare ulteriormente la crescita dei salari. Le retribuzioni, infatti, sono salite, ma meno delle attese. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore. E anche dall'Italia arrivano dati confortanti: la produzione industriale italiana a marzo è cresciuta del 4,3% su base annua, buono anche il dato congiunturale con un incremento dello 0,4% rispetto al mese di febbraio. Resta però il problema, lo sapete, di questo buco per le pensioni dopo la sentenza della Corte Costituzionale, anche se il ministro dell'Economia Padoan torna oggi a rassicurare l'Europa. Di questo poi ne torneremo a parlare anche noi. A Bruxelles si è rivolto Renzi questa mattina da Firenze chiedendo un'Europa più forte. Il Presidente del Consiglio, che sta girando l'Italia in vista delle assemblee regionali. Ha parlato prima ad Aosta, poi a Genova, vedevo poco fa che ha lasciato anche Genova, è tornato a parlare sul ricorso alla fiducia per l'Italicum, ha pizzicato un po' D'Alema, che D'Alema ha detto è stata una forzatura, una cosa antidemocratica, e lui dice ci sono due sinistre, una che vuole vincere e una che vuole perdere. Poi la cronaca, un'esecuzione in Sardegna, in provincia di Nuoro, di cui è rimasto vittima uno studente di 19 anni mentre aspettava il bus per la scuola. Le forze dell'ordine stanno cercando i due killer che hanno agito molto coperto. Alcuni amici dicono che giorni prima il ragazzo aveva difeso la sua compagna da dei bulli. Si indaga comunque in tutte le direzioni, e di questo, come ho annunciato all'inizio, parleremo più tardi. Sentiremo la preside dell'istituto che Gianluca Monni frequentava. Poi in provincia di Bergamo la direttrice di una banca di Ciserano nella bassa bergamasca è stata aggredita questo pomeriggio in un tentativo di rapina da un uomo che l'ha attesa all'esterno della filiale e le ha rovesciato addosso una bottiglietta di benzina dandole poi fuoco. Pensate, la donna di 55 anni è ricoverata in ospedale a Bergamo con ustioni di terzo grado, ma non sarebbe in pericolo di vita. E poi questa violenza sessuale e rapina all'alba su una tassista romana, una donna di 42 anni che è stata aggredita da un cliente che aveva preso a bordo poco prima delle 7.30 sulla via Aurelia. Il cliente le ha fatto cenno con la mano di fermarsi, poi è salito chiedendo di essere portato all'aeroporto di Fiumicino, ma durante il tragitto, dopo averle fatto cambiare strada più volte, l'ha fatta deviare per una stradina di Ponte Galera nelle campagne fra Roma e il litorale. A proposito di Fiumicino, oggi naturalmente, sapete, dopo l'incendio di ieri è stata un'altra giornata inevitabilmente di caos. Già ieri annunciavano che sarebbe funzionato per il 50% l'aeroporto. E poi anche una delle tante storie drammatiche di immigrazione. Voleva far entrare il figlio in Europa a tutti i costi, per questo l'ha messo in una valigia, in un trolley, è stato però scoperto dai doganieri. Le foto impressionanti hanno già fatto il giro del web. Le immagini raggi X mostrano un bambino rannicchiato in posizione fetale all'interno di un trolley insieme a qualche vestito. A fare la scoperta ai funzionari dell'immigrazione dell'enclave spagnola di Ceuta, 20 km quadrati a nord del Marocco. A trasportare la valigia una ragazza di 19 anni che anche a causa del suo comportamento molto nervoso è stata sottoposta a controlli all'ingresso del passaggio pedonale. Il piccolo rinchiuso in valigia si chiama Abu, ha 8 anni ed è originario della Costa d'Avorio. La ragazza che lo accompagna, che non è suo parente, è stata arrestata e messa a disposizione delle autorità giudiziarie. Il padre del bambino, con regolare permesso di soggiorno, fermato poco dopo, ha spiegato di avere pagato la donna e di aver ideato lo stratagemma per riuscire ad avere il figlio con sé in Spagna, alla Spalmas, alle Isole Canarie, dove vive e lavora. Il bambino, che ha detto ai funzionari ha rischiato di soffocare, è stato curato dalla Croce Rossa e al momento è affidato ai servizi sociali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo di spazio ed Expo oggi. All'Expo il giorno della festa dell'Europa, presente ad un convegno nel padiglione, naturalmente in collegamento ai padiglioni Italia, anche Samantha Cristoforetti, l'astronauta che proprio oggi ha saputo di dover restare in missione e nello spazio un mese in più. Sono molto contenta, ha detto lei, sentiamola. Ho avuto questa notizia internamente, ci è arrivata ieri, che mi sono stati regalati 30 giorni in più o meno, in realtà non si sa ancora, ma diciamo almeno un mesetto in più sulla stazione spaziale. Un po', devo dire, ci speravo, era una cosa che era nell'aria dopo ahimè l'incidente della Progress. Insomma, sono felicissima di poter restare un altro po' più di tempo qui a bordo della stazione spaziale. Per chiudere il calcio, la Corte Sportiva d'Appello della FIGC ha sospeso fino al 22 maggio la sanzione di 2 giornate di chiusura del settore sud della Juventus perché servono ulteriori indagini. Vedo già molti vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della frase di Renzi. Lo pensavo, tutto questo entusiasmo, però quasi quanto i vitalizi di ieri. La vostra risposta alla frase di oggi di Renzi, che ha detto la politica non è la schifezza che tanti raccontano, è qualcosa di bello al servizio della gente che allarga il cuore. Manuel dice: penso che Renzi dovrebbe cominciare a parlare da una prospettiva più vicina agli italiani e non continuare a propinarci assiomi su cosa sia o non sia la politica. La gente non ha bisogno di questo. Faccio politica, dice un altro ascoltatore, sono segretario regionale di un partito, non sono un politico, vivo del mio lavoro, nessun incarico, e sono convinto che chi fa politica e non il politico la pensa come dice Renzi. Quanto sincero sia lui, dice questo, quanto genuino è difficile a dirsi. Continuate con le vostre riflessioni, 349-238-6666 il numero per gli sms, e se no c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Viabilità. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. siamo sempre insieme. Guardo un attimo anche la pagina Facebook di Effetto Notte a proposito dei vostri messaggi, della frase di Renzi che ho fatto ascoltare prima. Giuliano dice: è assodato, Renzi si droga. Gio dice: che belle parole. Nadia: Renzi non ha la percezione della realtà, anche della sua. Alberto: più che allargare il cuore ci ha allargato il portafoglio di molti onorevoli. E poi Sergio: non commento, dovrei usare parole pesanti. Vela: per adesso ha tolto diritti e regalato incertezze, strano modo di essere al servizio della gente. Vi ricordo però intanto, prima di affrontare il primo argomento stasera, le notizie più importanti. A Cameron in Gran Bretagna la maggioranza assoluta, elezioni inglesi, subito referendum sull'Unione Europea. Dopo la sconfitta, Farage e Miliband lasciano la leadership dei reciproci partiti. Renzi dice: oggi parlare di fascismo è profanare la memoria dei morti. E risponde ad Alema: il PD perde iscritti, sono i nostalgici del 25%, cioè di quando la centrosinistra perdeva pensioni. Il ministro Padoan assicura: rispetteremo le regole. E poi gli Stati Uniti fuori dalla crisi, disoccupazione al 5,4%, ai minimi dal 2008, scuola, braccio di ferro tra sindacati e governo, gli scrutini potrebbero essere a rischio. E poi questa notizia di cronaca: ucciso nel Nuorese un ragazzo di 19 anni mentre aspetta il bus per andare a scuola. E a Roma una tassista violentata e rapinata da un cliente. Per il calcio, la Corte della FIGC sospende la sanzione di 2 giornate di chiusura del settore sud dopo la bomba carta. E adesso soffermiamoci su questo caso di cronaca oggi, che è stato in primissimo piano, anche perché ancora non ci sono chiaramente delle spiegazioni. E poi in una regione come la Sardegna, dove insomma da qualche tempo non si sentiva parlare di omicidi e poi di questo tipo, è stato ucciso Gianluca Monni, un ragazzo di 19 anni, è stato assassinato a colpi di fucile, fucilate al volto, al fianco, mentre aspettava il pullman che lo avrebbe portato a scuola. Questo è successo in pieno centro a Urune, che è un comune in provincia di Nuoro, e potete immaginare come siano sotto shock naturalmente i ragazzi, i compagni di scuola Istituto Tecnico e Professionale Alessandro Volta. Oggi quindi non ci sono state lezioni, ci sono state diverse riunioni anche per riflettere su ciò che è accaduto, anche per cercare di spiegare ai ragazzi, di capire anche quali sono i loro sentimenti, di arginare sensazioni naturalmente appunto di tristezza, di sgomento. E naturalmente con loro c'era la preside dell'Istituto che Innocenza Giannasi, che saluto. Buonasera, buonasera. Preside. Adesso le ragioni che si danno per il momento sarebbe un fatto terribile di bullismo, insomma, che lui probabilmente aveva difeso la ragazza da dei bulli nei giorni precedenti, e questo sarebbe stato il motivo, insomma, di questa esecuzione. Ma questo spetterà poi ai carabinieri valutare, perché noi per ora non possiamo fare ipotesi. L'unica cosa che sappiamo è che Gianluca era un ragazzo solare, sempre così educato, rispettoso nei rapporti degli altri, viene da una famiglia molto seria, per cui è difficile capire che cosa abbia portato a questo gesto così efferato. Il compito della scuola non è trovare certamente gli autori di questo fatto. Il nostro compito stamattina era prima di tutto vivere tutti insieme lo sgomento, perché lo sgomento era non solo dei ragazzi ma anche dei docenti. Devo dire che tutto il personale ATA ha partecipato, perché lo ha visto crescere da ragazzino di 14 anni quando è arrivato a un giovane uomo di 19, per cui avevamo tutti bisogno di prima di tutto di stare insieme a riflettere tutti insieme e cercare di elaborare insieme quello che è successo, chiarendo innanzitutto che c'è una risposta chiara e precisa nei confronti della violenza usata in questo modo, e la risposta è assolutamente negativa. Poi il fatto che il ragazzo sia stato ucciso mentre si preparava a venire a scuola, questo noi lo sentiamo anche come un attacco alla scuola. Infatti domani mattina nel cortile della scuola si svolgerà una manifestazione di una mezz'ora, molto, che vuole essere molto sobria, di ricordo di Gianluca, di vicinanza alla famiglia, e a questa manifestazione parteciperanno non solo tutti i nostri alunni e docenti e personale, ma anche i rappresentanti degli altri istituti e anche il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale. Presidente Giannasi, ma a Urune che ambiente c'è? Cioè, ci sono episodi di questo tipo? Ci sono ragazzotti magari appunto che non frequentano la scuola o insomma sono su una strada, su una china magari anche un po' delinquenziale, che lei sappia? Che ambiente c'è? Allora, io non conosco molto bene l'ambiente di Lula, anche se ho lavorato per diversi anni a Biti, che è lì vicino, però come in tutti i posti ci sono persone onestissime e altre persone che invece non hanno, hanno un diverso concetto del vivere civile e hanno una un'idea del valore della vita umana molto basso e relativo. Ah. Senta, ma i ragazzi, oggi che cosa vi siete detti con i ragazzi? Quali erano le loro reazioni, le loro domande, le loro riflessioni a scuola? Ma intanto diciamo che un po' tutti all'inizio abbiamo vagato per i corridoi semplicemente per passarci tutto quel poco di informazioni che potevamo avere, perché i ragazzi, molti di quelli che erano sul pullman e che hanno assistito alla scena sono rimasti a Oruna, intanto perché dovevano testimoniare anche davanti ai carabinieri e poi perché proprio erano così... Quindi hanno visto convinti. Loro, sono stati testimoni, insomma, alcuni di questi compagni. Sì, ma quelli compagni. Non sono venuti, sì, quelli non sono venuti. Abbiamo poi tutta un gruppo di ragazzi di Orune, ma anche diversi docenti nella nostra scuola, e quindi era soprattutto un ricordare Gianluca e un chiedersi perché, e anche cercare di organizzare il nostro dolore in modo che diventasse anche una testimonianza e un rifiuto certamente chiaro della violenza. A questo proposito, Presidente Giannasi, secondo lei a scuola, nella vostra scuola o scuola in genere, si fa un'educazione nei confronti dei ragazzi, dei giovani maschi soprattutto, che cerchi di allontanarli da certi stereotipi di bullismo, di macismo duro, violento, di stereotipi antisessuali? Abbiamo regolarmente l'intervento sia dei carabinieri che della polizia, che parlano con i ragazzi di questo tipo di problemi. E devo dire che di recente, tre settimane fa, è venuta da noi la direttrice del carcere di Bad de Carros, e il 14 i nostri ragazzi vanno a Bad de Carros a incontrare anche i detenuti. C'è quindi ci sono delle iniziative che tendono a collegare i ragazzi anche col mondo della violenza. Anche ieri mattina c'era una manifestazione a scuola, un incontro con Onda Rosa per quanto riguarda il femminicidio. Cioè, i ragazzi vengono coinvolti in tutte queste tematiche di violenza che non riguardano soltanto Nuoro, la Barbagia, ma ormai riguardano il mondo intero, perché mi dica lei... Se un pilota d'aereo che fa precipitare l'aereo con tanta gente a bordo è una cosa... Cioè, ormai è un fenomeno questo della violenza che coinvolge tutti in qualunque situazione, anche la più inaspettata. Chiaro. Presidente Giannasi, io la ringrazio per la disponibilità appunto in un momento così difficile. Quindi domani ci sarà una manifestazione... Sarà una cerimonia di una mezz'oretta, massimo un'ora, molto sobria, per dire la nostra vicinanza alla famiglia di Gianluca, ricordare Gianluca e soprattutto dire un no chiaro e netto contro la violenza. La ringrazio, Presidente Innocenza Giannasi. Grazie a voi, buona continuazione. Sera. Grazie. E vorrei anche parlarne con Ivan Paone, che saluto. Ciao Ivan. Buonasera, ciao, saluto agli ascoltatori. Che è caporedattore e coordinatore del sito del quotidiano l'unionesarda.it. Ivan, hai sentito quindi quello che diceva la preside? Diceva, questa cosa mi ha colpito, diceva che c'è però anche varia gente che ha un diverso concetto del vivere civile, un concetto del valore della vita molto basso. Beh, credo che sia una caratteristica comune a molti paesi della Sardegna, ma credo dell'Italia, non si differenzia Oruna in questo. Certo, Oruna è un paese difficile, è stato attraversato da una faida terribile il cui ultimo omicidio però risale al 2004. Questo non significa niente, perché poi queste faide riemergono come i fiumi carsici anche a decenni di distanza. Non è questo il caso, perché questo ragazzo parla alla famiglia, in questo caso è una famiglia, come diceva la preside, è rispettabile, mai coinvolta in nessun fatto di sangue, quindi non ha legami con la faida. Io credo che i motivi, il movente di questo omicidio terribile, sia da ricercare in un atto di bullismo portato alle estreme conseguenze, che ha pochi precedenti in Italia, devo dire, perché non è stata una reazione nel corso di un litigio all'uscita di una discoteca, ma probabilmente è stata una vendetta maturata a freddo, studiata, premeditata. Addirittura si parla perché un litigio sarebbe avvenuto con alcuni cosiddetti bulli del paese, addirittura risalente al periodo di carnevale, quindi stiamo parlando di febbraio. Senti, quindi, Ivan, ma è possibile un delitto d'impeto? Ma è possibile che dicono gli amici, aveva difeso la ragazza davanti a alcuni bulli, che questi cosiddetti bulli facessero parte di qualche famiglia invece legata alle faide e quindi ha toccato, diciamo, i fili della corrente? Certo. Allora, in Sardegna esiste il concetto della valentia, cioè del valore, dell'orgoglio. Ma tutto maschile? Sì, indubbiamente, certo. Mm. È associato all'essere maschile, indubbiamente. E questa valentia, che un tempo era un punto d'onore, quindi essere coraggiosi, orgogliosi, però allo stesso tempo anche leali nei confronti delle altre persone, poi si è deteriorato nel corso degli anni e la valentia si è trasformata in arroganza, aggressività, in macismo, appunto, macismo, sì, esatto. Non dimentichiamo Orune, il paese di nascita di Antonio Pigliaru, che è probabilmente stato il migliore intellettuale sardo nella storia, tra l'altro padre dell'attuale governatore della Sardegna francese. Antonio Pigliaru è raccontato nel codice della Vedetta Barbaricina, che è la sua opera più importante, i rapporti che esistevano fra le persone e anche la legalità della vendetta, con una serie di codici, con una serie di comportamenti, eccetera. Quindi questo intellettuale, proprio nativo di Orine, ha studiato i rapporti, a volte anche violenti, che esistevano fra le comunità e all'interno delle comunità. Poi pian piano questo concetto di valentia si è svilito, non esistono più i banditi gentiluomini, il bandito valente, cioè che rubava per necessità ma che aveva rispetto per gli anziani, per le donne, eccetera. Poi alla fine succede che anche nei nostri paesi, dove l'anziano era oggetto di grande rispetto da parte della comunità, in realtà viene vittima adesso delle classiche rapine in casa, un po' come avviene nel nord Italia, spesso sentiamo che questi questo è un fenomeno che da noi non esisteva. Infatti, Ivan, perché bisogna dire che la Sardegna, forse, non so, credo arrivino poche notizie perché ci arrivano anche dall'Australia, però ne abbiamo un'idea, almeno degli ultimi anni, di una relativa tranquillità, no? Sì, oddio, è una terra sufficientemente tranquilla, perché non esiste la criminalità organizzata. Da noi la 'ndrangheta, la mafia, la camorra non hanno fatto breccia. C'è sì qualche episodio, soprattutto nella zona nord-est della Sardegna, parlo di Olbia, Costa Smeralda, dove c'è una grande circolazione di denaro, dove la camorra e la mafia intervengono per riciclare denaro sporco, però in realtà non ci sono le bande organizzate e non ci sono neanche bande organizzate. Quello che sta avvenendo sono attentati agli amministratori, a sindacalisti, alle forze dell'ordine. Pensate che nell'arco di tempo dal 2011 al 2014 sono stati qualcosa come 1100 episodi di questo genere, piccoli e grandi. Parlo della bomba al sindaco, della scritta minacciosa sul muro, della testa d'agnello mozzata lasciata davanti alla porta di casa e così via. E poi è finito il filone dei sequestri di persona. I banditi si sono rivolti, si sono dedicati alle rapine in banca, poi col miglioramento delle misure di sicurezza anche queste sono un po' andate ad esaurirsi, quindi non ci sono grossi episodi di criminalità. E le faide, quindi se queste persone sono venute a mancare per una serie di motivi, adesso non mi dilungo, e sono venute a mancare anche le faide, finalmente si sono pian piano esaurite, almeno così sembra. E quindi gli episodi di criminalità sono tutto sommato ristretti. Questo però è un episodio che non ha precedenti. Certo, infatti in Sardegna un omicidio così di un ragazzo, e non per motivi legati a faide, perché alcuni ragazzi anche più giovani di Gianluca sono stati uccisi, però legati a questi motivi non è la prima volta che accade. Probabilmente inconsapevole ha pestato dei piedi che non doveva pestare, piedi sbagliati. Comunque, insomma, adesso lasceremo indagare gli inquirenti. Tu ci hai spiegato molto bene il contesto nel frattempo. Grazie Ivan Paone dell'Unione Sarda. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao Ivan. Ci prendiamo un pochino di ricreazione, vedo ancora i vostri messaggi. Lanfranco scrive: Renzi non si è accorto che per i politici l'Italia è un bancomat. Qualcuno dice: non so se si allarga il cuore, la politica allarga il cuore, ma sicuramente gli allarga a lui il portafoglio. Sono tutti piuttosto critici anche sulla pagina Facebook di Effettonote a questa nota di entusiasmo nei confronti della politica di Renzi. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per la pagina Facebook di Effettonote. Prendiamoci un po' di ricreazione. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, sempre insieme, dalle 21 come tutte le sere, Roberta Giordano sempre con voi. Vedo ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms al 349-238-6666. A proposito, visto abbiamo avuto un sacco di brutte notizie di cronaca, di un po' di alleggerimento sulla frase che ha detto Renzi: la politica non è la schifezza che vi raccontano, ma è una cosa bella che allarga il cuore al servizio della gente. Qualcuno scrive: retorica che può durare sino a che porta a casa risultati. Fabio da Varese scrive: se davvero avesse voluto nella vita farsi allargare il cuore, avrebbe scelto di andare in missione in Africa, in un paese del terzo mondo, aiutare i poveri come fanno tanti missionari che svolgono quotidianamente questo compito. Però adesso vi riassumo brevemente, come sempre c'è stata la pausa, le notizie più importanti di oggi e poi facciamo un po' il punto politico della settimana. Gran Bretagna, contro tutte le previsioni, il primo ministro Cameron stravince, quindi rieletto e riconfermato nella telefonata ricevuta da Renzi, dice: lavoriamo insieme su Europa e immigrati. Lo studente ucciso in Sardegna, aveva 19 anni, freddato mentre aspettava il bus per la scuola. Alcuni amici raccontano che difese la ragazza dai bulli. A Effetto Notte avete sentito poco fa la preside del suo istituto e il suo intervento intenso. Stati Uniti, l'economia americana è fuori dalla crisi, disoccupazione al 5,4% ai minimi dal 2008. Sulla scuola ancora braccio di ferro tra sindacati e governo e potrebbero essere a rischio gli scrutini. Per il calcio è stata sospesa la squalifica della curva della Juventus perché servono altre indagini. Dunque, quante cose sono successe questa settimana legate comunque alla politica? Allora, tanto per incominciare, il varo della riforma elettorale, quindi l'Italicum, con grande gioia e orgoglio di Renzi, ma con molti travagli soprattutto all'interno del Partito Democratico, sino alla fuoriuscita del dissidente numero uno Pippo Civati. E poi lo sciopero della scuola contro il disegno di legge del governo Renzi, la buona scuola, l'abolizione dei vitalizi, ne abbiamo parlato ieri, c'era qui a Effetto Notte Stefano D'Ambrosio, questore della Camera, nonché deputato di Scelta Civica, che ce ne ha parlato con entusiasmo, anche se molte sono le critiche. Ci sono Movimento 5 Stelle, Forza Italia, che su fronti contrapposti non sono per nulla contenti di questa cosa, perché Forza Italia dice ci serve una legge parlamentare, altrimenti ci saranno molti ricorsi. Movimento 5 Stelle dice che è una farsa. E poi il rebus delle pensioni dopo la sentenza della Consulta. Ne parliamo con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Buonasera Fabrizio. Allora, intanto sentiamo brevemente un passaggio di Renzi che esprime tutto questo orgoglio per le riforme a partire dall'Italico. Se avessimo fatto ciò che dovevamo fare quando l'hanno fatto altri paesi europei, oggi la nostra economia sarebbe molto più forte. Se la riforma del lavoro, anziché farla nel 2014, si fosse fatta nel 2004 come in Germania, oggi noi avremmo una condizione occupazionale diversa. Se le riforme istituzionali, anziché farle adesso, a partire dalla legge elettorale, che è legge e che garantisce stabilità a un paese che ha avuto 63 governi in 70 anni, unicum nella storia continentale, se la legge elettorale fosse stata fatta prima, sarebbe stato un segnale decisamente diverso e decisamente più forte. Ma adesso l'Italia quella pagina lì l'ha chiusa, l'ha voltata. Avete sentito Renzi con quale enfasi? Però mi piacerebbe anche farvi ascoltare dalla parte dell'opposizione, per esempio Brunetta, che è quello diciamo più infervorato nei confronti di Renzi, che così parla poco prima della firma da parte di Mattarella dell'Italicum. No, signor Presidente del Consiglio, le sue parole di ieri a Bologna assomigliavano molto, troppo, a frasi che abbiamo sentito nel ventennio fascista. Noi siamo dell'idea che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, grazie alla sua competenza di costituzionalista, grazie al fatto che ha contribuito a bocciare il premio di maggioranza del Porcellum, siamo certi che il Presidente della Repubblica Mattarella rinvierà questa legge alle Camere per manifesta incostituzionalità. Non è andata così perché Mattarella ha firmato. D'Alema oggi ha detto beh, non poteva fare altrimenti, però ha detto anche Massimo D'Alema, ex Presidente del Consiglio, è una legge, l'Italicum, che restringe il coinvolgimento dei cittadini relegandolo a un necessario contorno al protagonismo del leader. E ha ragione Sacconi, dice, quando del nuovo centrodestra, quando dice che questa riforma è un grande successo della destra perché ha un'ispirazione culturale di destra. Che ne pensi, Fabrizio Forché? Penso che non sia vero niente di tutto questo, penso che sia semplicemente una riforma che favorisce la governabilità, dà più possibilità ai governi, una volta che hanno una loro maggioranza, di attuare il loro programma, e questa è una cosa importante, una cosa che mi capita in questi anni in Italia, quando Renzi fa riferimento alle riforme che non si sono fatte negli ultimi 10 anni, non si sono fatte proprio perché troppo spesso le maggioranze erano litigiose, erano divise all'interno, le maggioranze non erano chiare, e quindi i governi non avevano la forza di fare quelle riforme che sono straordinariamente necessarie all'Italia, per cui io credo che questo sistema sia un passo avanti sicuramente positivo. Fabrizio Forché, pensate, parla mentre guida, vabbè, è una cosa che si può fare abbastanza così frequentemente. Notava? No, sei molto lucido. No, questo per dire che mi è capitato di tutto con persone che erano in tram, in treno, in motorino, stavano atterrando con l'aereo. Mi manca solo la mongolfiera, penso. Perché... Spero solo che qualche galleria non fa cadere la linea, no, ma non credo. No, mi raccomando, sennò poi mi tocca parlare da sola con gli ascoltatori del resto. Senti, dicevo, la fuoriuscita di Civati, molto sofferta, varie volte anche qui effetto note, aveva minacciato di lasciare il PD perché è scontento, perché riteneva che appunto ci fosse un pugno troppo duro e dittatoriale da parte di Renzi. Però sentiamo qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Civati e che è legata a un altro grosso argomento connesso alla politica di questa settimana. La verità è che la decisione finale non l'ho maturata sulla legge elettorale, che pure è importantissima, ma ascoltando gli insegnanti ieri nella manifestazione sulla scuola, quando la ministra Giannini dichiarava che era uno sciopero politico, lei è del PD, e però io ho incontrato un sacco di insegnanti del PD che dicevano che non lo votavano più, quindi è un po' un paradosso, no? E forse anche la rappresentazione delle nostre contraddizioni, una ministra del PD che attacca i manifestanti del PD. Hai capito, Fabrizio Forché, anche questa cosa della scuola è una cosa che crea molto scontento, soprattutto la figura del super preside. Guarda, cioè, faremo una ragione che Civati lascia il PD, a me Civati è molto simpatico e lo trovo anche un bravo politico, ma alle volte noi media creiamo dei casi, dei personaggi veramente al di là poi della realtà. Insomma, Renzi ha portato a casa questa legge elettorale, se paga la uscita del solo Civati mi pare che gli va di lusso, gli va assolutamente. E sulla scuola, bene. Una parola sulla scuola, Fabrizio? Guarda, sulla riforma della buona scuola? Sulla scuola io spero soltanto che Renzi non freni su una riforma che è una buona riforma. Temo che queste pressioni molto forti che vengono questa volta dall'interno proprio del suo elettorato, perché gli insegnanti, ricordiamocelo, sono una parte consistente dell'elettorato del PD, temo che queste pressioni possono indurlo a frenare, a qualche lieve retromarcia. Insomma, Renzi ha vinto sulla legge elettorale, ha una grande forza politica, è bene che ora la utilizzi per andare avanti sulle riforme, non deve frenare se ci sono pressioni, anche da parte del suo elettorato. Allora, ieri l'abolizione dei vitalizi, abbiamo sentito le parti favorevoli e contrarie, ma senti, invece sul rebus delle pensioni, c'era stato anche qui Zanetti, sottosegretario all'economia, che aveva riconfermato che è immorale restituirle a tutti, però Padoan ancora ha rassicurato, non ci sarà una manovra, non andremo fuori dai parametri europei, e in più pare che però questo buco, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, arrivi a 19 miliardi lordi. È così, guarda, purtroppo questo veramente è un problemaccio che rischia di condizionare tutta la politica di sviluppo che il governo deve fare nel corso di quest'anno. Sarebbe molto grave se il governo deve utilizzare risorse, fare manovre per coprire questo buco che si è aperto nei conti pubblici, sottraendole allo sforzo principale che deve essere fatto ora, che è quello appunto delle politiche dello sviluppo. Io è difficile giudicare le sentenze della Corte Costituzionale, bisogna avere un rispetto infinito ovviamente per le sentenze della Corte Costituzionale, però sappiamo tutti anche che i giudici su questa sentenza si sono divisi. erano divisi 6 a 6 nella votazione finale. Allora io mi chiedo, era un principio talmente assoluto, un diritto talmente assoluto, quello che doveva essere affermato, da mettere a rischio i conti pubblici dello Stato e in qualche modo anche la possibilità dell'Italia di agganciare la ripresa e di rilanciare la sua economia? Se i giudici sono divisi 3 a 6, forse non era un delitto così assoluto, insomma, quindi forse questa sentenza qualche dubbio lo lascia. E restiamo con questo dubbio per il momento. Grazie Fabrizio Forché e buon viaggio. Ti ringrazio, ciao. Ciao Fabrizio. E così anche Fabrizio e tutti coloro che sono alla guida possono anche sentire gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, vedo un sacco di vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, ma mi dicono che il tempo stringe, quindi vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, se non avete sentito le notizie, che in primo piano c'è la vittoria di Cameron in Gran Bretagna alle elezioni, che ottiene la maggioranza assoluta, subito il referendum sull'Europa, dice, e poi dopo questa sconfitta gli altri leader Farage e Miliband lasciano i loro partiti. Renzi dice che parlare di fascismo è profanare la memoria dei morti, lo fa nel suo tour in vista delle regioni in giro per l'Italia, e risponde D'Alema dicendo il PD perde iscritti, sono i nostalgici che volevano solo il centrosinistra al 25%. Pensioni, Padoan assicura che rispetteremo le regole, lo dice in particolare all'Europa. Intanto gli Stati Uniti sono fuori dalla crisi, disoccupazione al 5,4%, ai minimi dal 2008, e poi abbiamo parlato di questa vicenda, di questa vicenda di cronaca in Sardegna, ucciso nel Nuorese un ragazzo di 19 anni, uno studente, mentre aspettava il bus per andare a scuola. Europa 24 notte. Domani, in occasione della festa dell'Europa, aprirà al pubblico il padiglione dell'Unione Europea all'Expo di Milano. Due giovani di nome Alex e Silvia, un agricoltore e una ricercatrice, sono i protagonisti della storia narrata in video ai visitatori. Qual è l'anello di congiunzione tra questa storia e l'agenda per la sicurezza del cibo e la nutrizione che l'Europa ha lanciato per l'Expo? Laura Bettini lo ha chiesto a Giancarlo Caratti, vice commissario generale per la partecipazione dell'Unione Europea al World Expo 2015. Abbiamo tre agende che sono le correlate ma che hanno una vita indipendente. La prima agenda è quella di comunicazione, cerchiamo di raccontare l'Europa in un modo diverso rispetto a quello che si è raccontata fino ad oggi, utilizzando l'amore come elemento di forza, e l'amore tra due personaggi che sono diversi e che quindi rappresentano il motto dell'Europa, l'unione e la diversità. Sono diversi però anche nel senso, non solo nel senso della cultura, ma anche nel senso della formazione. C'è un agricoltore e c'è una ricercatrice. Perché questo? Perché il problema della fame nel mondo e del sovrappopolamento, secondo le stime dell'ONU si arriverà a 9 miliardi di persone nel 2050 da 7 miliardi oggi, che significa aumentare la produzione di cibo del 60%, non si risolve se non attraverso la ricerca. La ricerca è necessaria perché abbiamo oltretutto anche dei problemi di sostenibilità, che non possiamo esaurire tutte le risorse, un problema di impatto del cambiamento climatico che sulla produttività è negativa, quindi dobbiamo studiare delle culture che per esempio resistono al sale, hanno minor bisogno dell'acqua, che hanno una produttività maggiore, c'è per esempio il grano che non si deve ripiantare ogni anno ma che può essere perenne e quindi non c'è bisogno di sprecare tutta l'energia per l'aratro, quindi esistono un'infinità di tecnologie che sono la fase sperimentale, esistono anche molte tecnologie che sono ormai le fasi sviluppate ma che devono essere trasferite in paesi dove sono meno conosciute. Quindi il programma europeo di ricerca è quello di fare lo stato dell'arte che è il secondo punto, del secondo obiettivo, lo stato dell'arte della ricerca nel campo dell'agricoltura e della sostenibilità, in modo tale da presentare delle soluzioni, delle best practice che possono essere utilizzate per aumentare la produttività e diminuire l'impatto anche dell'agricoltura sull'ambiente. Il terzo punto, che è fondamentale, è quello di utilizzare anche, diciamo, il fatto che l'Europa, in Europa il più grande settore industriale è quello dell'agroindustria, il settore alimentare ha circa 1.000 miliardi di fatturato, il primo settore, e quindi ci sono molti prodotti che sono anche prodotti di piccole e medie imprese, prodotti di nicchia, geograficamente controllati che sono poco conosciuti all'estero, quindi anche utilizzare la leva dell'Expo per poter esportare di più e quindi consentire una crescita in altri paesi, e quindi organizzando degli incontri B2B tra gli operatori del settore agroalimentare, stimolare appunto l'export e anche l'import di prodotti da altri paesi. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora invece è tempo di sapere che tempo fa con il nostro meteorologo di 3B Meteo, Paolo Corazzon. Carissimo Paolo. Buonasera, ciao Roberta, buonasera a tutti. Ma guarda, tutto sommato non ho brutte notizie per questo fine settimana. Bene, che sarà discreto nel complesso. La giornata di domenica sarà la migliore perché in gran parte d'Italia avremo bel tempo e temperature gradevoli senza gli eccessi che abbiamo avuto a inizio settimana, e tra l'altro anche con poca umidità, quindi neanche il caldo afoso che abbiamo respirato nei giorni scorsi. La giornata di domani invece sarà ancora un pochino variabile al nord-est e nelle zone interne del centro-sud, con magari qualche temporalino pomeridiano, ma in un contesto, ti ripeto, di tempo discreto, quindi una volta tanto riusciamo a goderci il fine settimana. Che farai, si può dire? No, è questione privata, il fine settimana. Paolo Corazzon. No, in realtà te lo dico volentieri, mi preparo alla partenza per il Tornado Tour. Tra 8 giorni parto per gli Stati Uniti a caccia di tornado, una cosa che Trebimeto fa da un paio d'anni, molto particolare, anzi ti chiederò se vorrai di seguirci anche. Non in mezzo al tornado, possibilmente restando al di fuori. Grazie Paolo Corazzon. Ciao, buon weekend. Ciao Paolo. Grazie. Anche a te buon fine settimana. Noi abbiamo giusto il tempo di ricordarvi che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, e poi ci sentiamo per gli aggiornamenti tra poco, le 22.